figliola, alla fine t'ho trovato un marito. E quando? Adesso s'è conchiuso il negozio. Con Nanni? Oh, Nanni appunto, il poveraccio si può spazzar la bocca, perché stavolta a lui non gliene tocca. Ma... Non c'è tanti, ma figliola mia, Nanni è povero. Ed io, che sono ricca? Il sarai. Cosa mi importa quando ricca sarò, se non sarò contenta? E perché no? Perché va bene a lui. Tu mi fai ridere, or vorrai bene a questa. E che si può voler bene quando torna a chi si vuole? Sicuro, le ragazze non hanno volontà. Ma quando vien da sé, come si fa? Subidisce e si tace. Questa bella, io ti trovo marito, un ottimo partito, un giovanotto che lavora al sol suo, che il dì di festa ha il capello di feltro e carne al fuoco, e sei la schizzinosa, e ti par poco. Ma il mio Nanni... Al tuo Nanni non ci pensa più. Non è possibile. Io lo vengo ogni giorno, io lo sogno ogni notte, e non volendo mi ci verrà a pensare. Anzi, nel mentre che proporrò scordarmene, che ubbidirvi vorrò come convienzi, bisognerà per rabbia che io ci pensi. Sai tu che io sono stracco di stare a tu per tu? Che andate in collera? Oh, capita! Mi scappa! Dovrò avere una lite per far la tua fortuna! E ben sentite, facciam così, datemi voi marito, io lo terrò per ubbidirvi, e poi, vorrò bene al mio Nanni. Oh no, figliola, non s'usa, che in città cotesta scuola, è comodo il compenso, e fra signori s'è introdotto e si loda. Ma fra noi una donna che piengo testa regola si battezza per frasca e per pettegola. Ma cosa devo far se Nanni viene con tanto leggiadrino? Gli si volta le spalle e si va via.